sto bene così, senza dubbi, senza perché. Senza risposte poco chiare, poca volontà. E sto bene così, con il mio modo di vedere, con un limite sempre più imprevedibile, poca volontà, poca voglia di crescere. E sto bene così, senza dubbi, senza di te. Senza discorsi poco chiari, poca volontà. E sto bene così, con il mio modo di vedere, con un limite sempre più imprevedibile, poca volontà, poca voglia di crescere. Con il mio modo di vedere, con un limite sempre più imprevedibile, poca volontà, poca voglia di crescere.